5D. Ascolta e replica. In quell'occasione ebbi molto coraggio. In quell'occasione anche noi avemmo molto coraggio. In quell'occasione ebbi molta fortuna al gioco. In quell'occasione anche noi avemmo molta fortuna al gioco. In quell'occasione ebbi molto successo. In quell'occasione anche noi avemmo molto successo. In quell'occasione ebbi molta paura. In quell'occasione anche noi avemmo molta paura. Quella sera non ebbe problemi. Quella sera neanche loro ebbero problemi. Quella sera non ebbe pazienza. Quella sera neanche loro ebbero pazienza. Quella sera non ebbe una buona notizia. Quella sera neanche loro ebbero una buona notizia. Quella sera non ebbe la determinazione giusta. Quella sera neanche loro ebbero la determinazione giusta.